Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Undicesima puntata. E quella sera mi vidi camminare verso la casa di Lilian Serpas, amici miei, spinta dal mistero che a volte assomiglia al vento di Città del Messico, un vento nero, pieno di buchi dalle forme geometriche, e a volte assomiglia alla serenità di Città del Messico, una serenità genuflessa, la cui unica proprietà è quella di essere un miraggio. Vi sembrerà strano, ma io non conoscevo Carlos Coffin Serpas. In realtà non lo conosceva nessuno, o meglio, lo conoscevano in pochi, e quei pochi avevano dato ali alla sua leggenda, la sua povera leggenda di pittore pazzo che viveva chiuso in casa della madre, una casa che a volte era arredata con mobili pesanti e coperti di polvere come usciti dalla cripta di uno dei seguaci di Massimiliano, e a volte sembrava invece far parte di un caseggiato popolare, la coppia felice della casa dei Burron, gli invincibili Burron, che Dio li conservi ancora per tanti anni. Quando arrivai in Messico, il primo complimento che ricevetti fu che ero identica a Borola Tacuce, cosa non troppo lontana dal vero. La realtà, come tristemente accade, era una via di mezzo. Non si trattava di un palazzo in decadenza né di un modesto appartamento in un caseggiato popolare, ma di un vecchio edificio a quattro piani in Calle Repubblica de El Salvador, vicino alla chiesa di San Filippo Neri. A quell'epoca Carlos Coffin Serpas doveva avere superato i 40 anni e nessuno che conoscessi l'aveva più visto da tempo. Che cosa pensavo dei suoi disegni? Non mi piacevano molto, a dire il vero. Figure quasi sempre molto magre che per di più sembravano malate. Ecco cosa disegnava. Le figure volavano o erano sepolte e a volte guardavano negli occhi chi osservava il disegno e gli facevano un gesto con la mano. Per esempio si portavano un dito alle labbra chiedendo silenzio, o si coprivano gli occhi, o mostravano il palmo di una mano senza linee. Tutto qui. Non posso dire altro. Non capisco granché di arte. Quel che è certo è che ero lì, davanti al portone della casa di Lilian, e mentre pensavo ai disegni di suo figlio, che erano senza dubbio i disegni meno quotati sul mercato dell'arte messicana, pensavo anche che cosa avrei detto a Coffin quando mi avesse aperto la porta. Lilian viveva all'ultimo piano. Suonai tre volte il campanello. Non mi rispose nessuno. E per un istante pensai che Coffin Serpas doveva essere in un bar dei dintorni, perché aveva anche fama di alcolista incallito. Mi preparavo già ad andarmene quando qualcosa che non saprei spiegare bene, probabilmente un'intuizione, o forse solo la mia naturale curiosità acuita dall'ora e dalla camminata, mi spinse ad attraversare la strada e a piazzarmi sul marciapiede di fronte. Le luci delle finestre al quarto piano erano spente, ma dopo qualche secondo mi parve di veder muovere una tenda, come se il vento che non soffiava per le strade di Città del Messico scivolasse dentro quella casa al buio, e per me fu troppo. Attraversai la strada e suonai ancora una volta il campanello. E senza aspettare che mi aprissero il portone, tornai sul marciapiede di fronte e osservai le finestre e vidi scorrere una tenda, e stavolta riuscii a scorgere un'ombra. La sagoma di un uomo che mi guardava dall'alto, sapendo che io lo vedevo e senza curarsene stavolta. E allora capii che quell'ombra era Carlos Coffin Serpas, che mi guardava e si domandava chi ero. Cosa ci facevo lì a quell'ora di notte? Cosa volevo? Di quali infami notizie ero portatrice? Per un istante ebbi la certezza che non mi avrebbe aperto. Il figlio di Lilian, si sapeva, non vedeva nessuno e nessuno voleva vedere lui. La situazione, pertanto, comunque la si considerasse, era curiosa. Gli feci cenno con la mano. Poi, senza guardare verso la finestra in alto, attraversai per la quarta o la quinta volta la strada, mostrando una sicurezza che non avevo. Dopo qualche secondo il portone si aprì con uno scricchiolio. La cui eco si prolungò nell'androne. Salì le scale con cautela. La luce era scarsa. Al quarto piano, dietro la porta socchiusa, mi stava aspettando Carlos Coffin Serpas. Io non so perché non gli dissi quello che gli dovevo dire e non me ne tornai subito a casa. Coffin era alto, più alto di sua madre, e si intuiva che da giovane era stato magro e ai tante, anche se adesso era grasso, anzi gonfio. Aveva la fronte grande, ma non dell'ampiezza che indica l'uomo intelligente o ragionevole. La sua era l'ampiezza di un campo di battaglia. E da lì in poi era tutta una sconfitta. I capelli radi e stentati che gli coprivano le orecchie, il cranio bitorzoluto, gli occhi chiari che mi guardarono con un misto di diffidenza e noia. Malgrado tutto, io sono ottimista per natura, mi parve attraente. Come sono stanca, gli dissi. Dopo avermi fissato per alcuni secondi, durante i quali non mi invitò ad entrare, mi domandò chi ero. Sono un'amica di Lillian, dissi. Mi chiamo Auxiliola Couture e lavoro all'università. A dire il vero, a quei tempi non avevo alcun lavoro all'università, cioè oggettivamente ero di nuovo disoccupata, ma lì, davanti a Coffin, mi parve più rassicurante dire che lavoravo in facoltà piuttosto che confessargli che non lavoravo da nessuna parte. Rassicurante per chi? Ma per tutti e due. Per me, che così mi costruivo una spalla immaginaria a cui appoggiarmi, e per lui, che così non vedeva spuntare nel cuore della notte un doppio un po' più giovane della sua adorata e tremenda mammina. È sconsolante ammetterlo, lo so, ma è quello che dissi. E poi, guardandolo dritto negli occhi, aspettai che si facesse da parte. Allora a Coffin non restò altra scelta che chiedermi se volevo entrare, come un fidanzato reticente alla fidanzata in attesa. Certo che volevo entrare. E così entrai e vidi quali luci erano sopravvissute in casa di Lillian. Un ingresso piccolo e pieno di pacchetti con le riproduzioni dei disegni del figlio. E poi un corridoio corto e buio che portava in un salotto dove la povertà in cui vivevano l'ex poetessa e l'ex pittore era ormai impossibile da nascondere. Ma a me la povertà non fa schifo. In America Latina nessuno, tranne forse i cileni, si vergogna di essere povero. Solo che questa povertà aveva una qualità abissale, come se penetrare in casa di Lillian equivalesse a immergersi nelle profondità di una fossa atlantica. Lì, in un'immobilità che non era tale, l'intruso veniva osservato dai resti carbonizzati e coperti di muschio o di plancton di ciò che era stato una vita, una famiglia, una madre e un figlio reali e non inventati o adottati in preda all'eccesso come erano i miei figli. Un inventario o un anti-inventario sottilissimo, che si staccava dalle pareti e parlava in un sussurro come uscisse dal buco nero degli amanti di Lillian, della scuola elementare di Carlitos Coffin Serpas, delle colazioni e delle cene, degli incubi e della luce che di giorno entrava dalle finestre quando Lillian apriva le tende, tende che adesso sembravano infette. Tende che io, sempre operosa, avrei immediatamente staccato e lavato a mano nell'acquaio della cucina, ma che non staccai perché non volevo fare niente di brusco, niente che potesse turbare lo sguardo del pittore, uno sguardo che man mano che passavano i secondi, e io restavo lì ferma, si andò calmando. Come se Coffin accettasse provvisoriamente la mia presenza nel suo ultimo baluardo. Di più non posso dire. Volevo restare e mi feci immobile e muta, ma i miei occhi memorizzarono tutto. Il divano sfondato fino a toccare terra, il tavolinetto basso cosparso di carte, tovaglioli e bicchieri sporchi, i quadri di Coffin coperti di polvere appesi alle pareti, il corridoio che conduceva come un capriccio temerario e al tempo stesso inesorabile alla camera della madre e alla camera del figlio e alla stanza da bagno verso la quale mi diressi, dopo aver chiesto il permesso e aver aspettato il verdetto che Coffin dovette prima discutere con se stesso, o con Coffin 2, o forse perfino con Coffin 3. Una stanza da bagno che non si differenziava in nulla e per nulla dal salotto, e che io, mentre camminavo nel corridoio buio, tutti i corridoi erano bui in casa di Lillian, immaginavo a torto senza specchio, sbagliando, perché invece in bagno lo specchio c'era, peraltro uno specchio normale, sia come grandezza sia come punto dove era appeso, sopra il piccolo lavandino, e nel cui mercurio osservai ostinatamente ancora una volta, dopo aver fatto pipì, la mia faccia magra e i miei capelli biondi alla principe Balian e il mio sorriso sdentato. Perché mentre ero nel bagno della casa di Lillian Serpas, amici miei, un bagno dove sicuramente nessun estraneo metteva piede da un pezzo, mi venne da pensare alla felicità, così di punto in bianco, alla felicità che si poteva nascondere sotto le croste di sudiciume di quella casa. E quando una è felice o sente che la felicità è vicina, allora si guarda allo specchio senza nessuna cautela. Anzi, quando una è felice o si sente predestinata all'esperienza della felicità, tende ad abbassare le difese e ad accettare gli specchi, secondo me per curiosità o perché stai bene dentro la tua pelle, come dicevano gli infrancescati di Montevideo, che Dio li conservi almeno un po' in salute. E così mi guardai nello specchio del bagno di Lillian e di Coffin e vidi Auxilio la Couture. E quello che vidi, amici miei, risvegliò nel mio animo sentimenti opposti. Perché da un lato mi sarei messa a ridere, perché mi vidi bene, con la pelle un po' colorita dall'ora e dall'alcol, ma con gli occhi abbastanza svegli. Quando tiro tardi, gli occhi mi diventano due fessure di salvadanaio, dalle quali non entrano le monete tristemente cariche di speranza del risparmio chimerico, ma le monete di fuoco di un incendio futuro dove niente ha più senso. Brillanti e svegli, due occhi che sembravano fatti apposta per godersi una mostra notturna dell'opera di Coffin Serpas. E dall'altro lato vedi le mie labbra, poverette, che tremavano impercettibilmente, come se mi dicessero: non fare la pazza, Auxilio. Che razza di idee ti passano per la testa? Tornatene subito nel tuo abbaino. Dimenticati Lillian e il suo rampollo infernale. Dimentica Calle Repubblica de El Salvador e dimentica questa casa che si basa sulla non vita, sull'antimateria, sui buchi neri messicani e latinoamericani, su tutto quello che una volta voleva portare alla vita ma che adesso porta solo alla morte. E allora smisi di guardarmi allo specchio e dai dotti lacrimali mi sfuggirono due o forse tre lacrimoni. Quante notti avrò passato a riflettere sulle lacrime e quanto poco ci ho cavato. Poi tornai in salotto e Coffin era ancora lì, in piedi, a guardare nel vuoto. E quando mi sentii uscire dal corridoio, come se uscissi da una navicella spaziale, girò la testa e mi guardò. E io capii immediatamente che non stava guardando me, la sua inaspettata visitatrice, ma la vita del mondo esterno, la vita a cui aveva voltato le spalle, che se lo stava mangiando vivo benché lui fingesse un sovrano disinteresse. E allora bruciai le mie ultime navi, più per ostinazione che per desiderio, e mi sedetti sul divano scassato senza che nessuno mi invitasse a farlo. E ripetei le parole di Lilian, che quella notte non sarebbe tornata, che lui non doveva preoccuparsi, che sarebbe rientrata di buon'ora la mattina dopo, e aggiunsi qualcos'altro che non c'entrava niente, farina del mio sacco. Osservazioni banali sulla casa della poetessa e del pittore, un posto incantevole, vicino al centro, ma in una strada tranquilla e silenziosa, e intanto non mi parve una cattiva idea renderlo partecipe dell'interesse che la sua opera risvegliava in certe persone. Così dissi che i suoi disegni, quelli che conoscevo grazie alla madre, mi sembravano interessanti, che è un aggettivo che non sembra aggettivare e che serve tanto per descrivere un film che ci ha annoiato senza che vogliamo ammetterlo, quanto per indicare lo stato di gravidanza di una donna. Ma interessante è o può anche essere sinonimo di mistero. E io parlavo di mistero. In fondo era di questo che parlavo. Credo che Coffin lo capisse, perché dopo avermi di nuovo guardato con i suoi occhi da esule, prese una sedia. Per un istante pensai che me l'avrebbe spaccata in testa. E si sedette al contrario, a cavalcioni, stringendo come un prigioniero minimalista le sbarre dello schienale. Ricordo che a partire da quel momento, come se avessi sentito in lontananza il colpo di fucile che apre la stagione di caccia, parlai di tutto quello che mi passò per la testa finché non rimasi senza parole. A tratti Coffin sembrava lì lì per addormentarsi e a tratti le sue nocche si tendevano come se stessero per esplodere, o come se lo schienale della sedia che lo separava da me stesse per saltare in aria, polverizzato, disintegrato. Ma a un certo punto, come ho detto, esaurì le parole. Credo che non mancasse molto alle prime luci dell'alba. Allora Coffin parlò. Mi chiese se conoscevo la storia di Erigone. Erigone? No, non la conosco, ma il nome mi suona... Mentii, col timore di fare una figuraccia. Per un secondo pensai sconsolata che mi avrebbe parlato di un vecchio amore. Abbiamo tutti un vecchio amore di cui parlare quando non c'è altro da dire e sta albeggiando. Però venne fuori che Erigone non era un vecchio amore di Coffin, ma una figura della mitologia greca, la figlia di Egisto e Clitemnestra. Oh, questa storia sì che la so, sì che la sapevo. Agamennone va a Troia e Clitemnestra diventa l'amante di Egisto. Quando Agamennone ritorna da Troia, Egisto e Clitemnestra lo uccidono e poi si sposano. I figli di Agamennone e Clitemnestra, Elettra e Oreste, decidono di vendicare il padre e di riprendersi il regno. Questo li porta a uccidere Egisto e la loro stessa madre. L'orrore. Io arrivavo fin lì. Coffin Serpas arrivava più lontano. Parlò della figlia di Clitemnestra e di Egisto, Erigone, sorellastra di Oreste, e disse che era la donna più bella di tutta la Grecia. Non a caso sua madre era sorella della bella Elena. Parlò della vendetta di Oreste. Un'ecatombe spirituale, disse. Sai cosa significa ecatombe? Io identificavo la parola con una guerra nucleare e preferii non dire nulla. Ma Coffin insisté. «Un disastro», dissi io. «Una catastrofe». «No», disse Coffin. «Un'ecatombe era il sacrificio simultaneo di 100 buoi. Viene dal greco ecaton, che significa 100, e da bous, che significa bove. Anche se nell'antichità si registrano ecatombi di 500 buoi. Te lo immagini?» disse. «Sì, io mi posso immaginare qualunque cosa», risposi. 100 buoi sacrificati, 500 buoi sacrificati, i miasmi del sangue che si dovevano sentire a distanza. Ai partecipanti veniva la nausea in mezzo a tanta morte. «Sì, me l'immagino», dissi. «Beh», La vendetta di Oreste è qualcosa di simile, disse Coffin. Il terrore del matricida, disse. La vergogna e il panico, l'irreparabilità del matricidio, disse. E in mezzo a quel terrore c'è Erigone, la figlia adolescente di Clitemnestra ed Egisto, bellissima, immacolata, che osserva l'intellettuale Elettra e l'eroe eponimo Oreste. L'intellettuale Elettra, l'eroe eponimo Oreste. Per un momento pensai che Coffin mi stesse prendendo in giro. Ma niente affatto. In realtà, Coffin parlava come se io non fossi stata lì. A ogni parola che gli usciva di bocca io mi allontanavo sempre più dalla casa di Calle Repubblica del Salvador, anche se allo stesso tempo, per quanto sembri paradossale, diventavo sempre più presente, come se l'assenza riaffermasse la mia presenza o come se i tratti dell'immacolata Erigone stessero usurpando i miei tratti invisibili o sciupati dalla realtà, così che da un lato io potevo sparire, ma dall'altro, mentre sparivo, la mia ombra prendeva i tratti di Erigone. Ed Erigone era lì, nel malconcio salotto della casa di Lilian, attratta dalle parole che Coffin stava snocciolando con tono ciarliero o petulante, come avrebbe detto Julio Torri, a cui queste storie sarebbero senz'altro piaciute, indifferente al mio sguardo preoccupato, perché mi rendevo anche conto, pur non volendo lasciare Coffin quella notte, che la strada in cui si era infilato forse era solo il preambolo di una crisi nervosa acutizzata dall'assenza della sua mammina, ahimè, o dalla mia presenza inaspettata che non compensava quell'assenza. Ma Coffin proseguì con la storia. Era la puntata numero 11 di Ad Alta Voce, Maria Paiato che legge Amuleto di Roberto Bolaño, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio alla regia, Luigi Iavarone. Le puntate sono riascoltabili sul sito raiplayradio.it.